GR Sport. Buongiorno, in apertura del ciclismo, Samuel Dumoulin ha vinto ieri la terza tappa del Tour de France da Saint-Malo a Nantes, 208 km. Il giovane francese Romain Failloux è la nuova maglia gialla, in servizio. 30 km contro il tempo. Oggi a Cholet, primo snodo di un tour che ha fretta di mettere subito le cose in chiaro. Se il Tour è l'università del ciclismo, oggi la Grand Boucle propone subito una bella verifica, la prova contro il tempo. Un esercizio che molti non hanno nelle proprie corde. Tra questi il nostro Riccardo Ricco, che ieri ha lasciato per strada 38 secondi al pari del russo Denis Menchov, certamente più portato nelle prove contro il cronometro rispetto al modenese. Anche Kunebe è chiamato a dimostrare di essere migliorato in questo esercizio di stile, così come Valverde vuole riprendersi la maglia gialla passata ieri sulle spalle di Failloux. L'australiano Cadel Evans, grande specialista del cronometro e grande favorito al successo finale, per non sbagliare è pronto a mettere tutti in fila. A Cholet si annuncia una crono difficile su strade nervose ma non piatte. Il vero pericolo è la pioggia e il forte vento, due ingredienti che possono rivelarsi molto più selettivi di una montagna horse category, fuori categoria. Per Augusto Stagli, Giro 24, il Sole 24 Ore. Il nuovo portiere della Lazio, l'argentino Juan Pablo Carrizo, è a Roma, l'atteso numero uno dopo un anno di rinvii per poter giocare in biancoceleste, ha dichiarato: sono orgoglioso di poter indossare finalmente la maglia della Lazio e voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno atteso per un anno. Sentiamo Carrizo. Forza Lazio, e voglio ringraziare a tutti i tifosi per avermi aspettato tanto tempo e sono molto felice. Possiamo fare bene in Champions. Il difensore juventino Nicola Allegrottagli è convinto dei mezzi a disposizione della sua squadra e azzarda un pronostico sull'avventura in Europa che sta per iniziare. Ci sono annate in cui arrivano in fondo squadre non favorite. Sento che sarà così anche per la Juventus. Allegrottagli è intervenuto anche sul possibile arrivo in bianconero del centrocampista Poulsen. Ci sono tanti esempi nel calcio dove sono giocatori che in campo si trasformano, cioè diventano ossessivi, diventano veramente brutti anche nel guardarli, però magari nella vita privata sono bravissime persone, persone eccezionali. Ci sono questi esempi. È chiaro che uno in campo dà il massimo, non vuole mai perdere, lui è un po' sopra le righe, ma io penso che in un ambiente tranquillo come il nostro si calmerebbe un po', anche perché il calcio italiano non ti permette di fare tante scenate del genere. Rafa Nadal, fresco vincitore di Wimbledon, ha annunciato che non prenderà parte al torneo sulla terra battuta di Stoccarda, del quale è detentore, perché completamente spossato. Sono ormai 4-5 mesi che non mi fermo, ha spiegato lo spagnolo numero 2 del mondo, che domenica ha impiegato quasi 5 ore per battere sull'erba londinese lo svizzero Roger Federer. I miei progetti per l'immediato futuro sono molto semplici, voglio solo riposarmi perché mi sento completamente spossato. E chiudiamo con la scherma. Ilaria Bianco ha vinto l'argento nella sciabola individuale agli europei. In finale è stata sconfitta 15-10 dalla russa Sofia Velikaia. Ed è tutto per questa edizione. Un augurio di buona giornata.